Rintocchi qua la mezzanotte medita. Il 15 d'agosto qua fa freddo pure se non nevica. Non mi importa se sta roba in grana, la grana. Lo faccio perché terapia 7 volte la settimana, bro. A botte sgarro, aumento con le dosi, mix agrodolci, sex on the beach. Le volte diventano 14. Arezzo la mia zona, 0 beach, 2G, Monello, mi trovi street. Senti la scia, pischelle che mi annusano, colonia di Maria, sarà il nuovo profumo, la sostanza, la nuova fragranza, fatto. Oltre a Maria mi ritrovo un'altra tipa in questa stanza. Santo padre, niente male, 0575, nuova gente speciale. Corre puro senza premio, ice, guerra tra poveri, freaky price race. 2G, competizione, vi guardo dall'Enterprise. Toracica è la mia fortezza, costruisce ricordi che la gente se li sogna. La forza sta in chi si rialza, pazza a farlo lì dentro un teatro, fuori ad una terrazza. Una sveltina in una cantina o su in fortezza, rimane impressa. Ora aver tutti in pugno, l'amore in mano, alta sincerità in quell'altra. Spezzo incantesimi che mi ha reso pazzo, tra un pettegolezzo e l'altro. Vorrei chiedere al mio ex prof se per sto pezzo merito un bellotto e mezzo. Sei andata a letto, non hai letto libro, ma loro ti hanno letto come un libro aperto. Tutto scoperto, in queste LP mi vesto. Fa freddo, su questo grattacielo aspetto. Il nuovo mondo verrà di certo. Faccio stile, faccio stili. Vomito bile, non a litri, a chili. Skyfall è l'assaggio del mio passaggio. Il mio messaggio, non arrenderti mai. Street life, Arezzo e sfondo. Big City Life.